Dodo e la pignatta d'oro. Dodo è uno che ha sempre fame. Mangerebbe perfino i sassi e spesso lo fa. Un giorno, mentre rosicchiava il fianco di una montagna, gnam, gnam, gnam, gnam, lo vide un ladro e pensò che stesse cercando l'oro. «Voglio subito il tuo oro!» gridò puntandogli addosso l'archibugio. «Ma io non ne ho!» farfugliò Dodo. «Beh, a parte i raggi d'oro del sole su cui mi piace ballare!» E Dodo si esibì in un balletto. «Se sai ballare su un raggio di sole», gli disse il ladro, «sai farlo anche sull'arcobaleno?» «Si capisce», rispose Dodo. «Beh, c'è una pignatta d'oro alla fine dell'arcobaleno. Portamela qua o ti stacco il becco!» Così Dodo danzò fino alla cima dell'arcobaleno, con il sole negli occhi e la pioggia che gli bagnava le piume. Dall'altra parte, in fondo all'arcobaleno, c'era la pignatta. Dodo la sollevò con il becco, ma mentre tornava sui suoi passi, l'arcobaleno cominciò a svanire. Sotto di lui il ladro gli gridò: «Presto, buttami l'oro prima che l'arcobaleno svanisca!» E Dodo glielo buttò. Ma la pignatta era così pesante che spiaccicò il ladro e le monete caddero per terra in un mucchio dorato. Dodo non sapeva che farne. «E potrei lasciarle qui?» pensò. «Ma è peccato sprecare il denaro!» E se le mangiò. Mm-hmm.